L'unica soluzione rimane scappare, scopare, ballare, baciare, lottando, fuggendo insieme tra le rose di un prato di Eros, mistero della vita da scoprire insieme. Corro con i miei fratelli alla festa in qualunque luogo, caldi mantelli, la musica colorare, se no serate sì troppo spente, musica ritorna, risuona, corde dona, lente, genti, note, seguire la vita. L'unica soluzione rimane scappare, scopare, baciare, ballare lottando, fuggendo insieme tra le rose di un prato in Eros, mistero della vita da scoprire insieme. Veloce invece l'anima in festa in questo luogo in cima, al sogno resta la musica risuonare, seni di dame serrate tra genti, musica ritorna, colora, corda e dona, notti d'amore, inseguire la vita. L'unica soluzione rimane scappare, scopare, baciare, ballare lottando, fuggendo insieme tra le rose di un prato d'Eros, di un mistero chiamato vita, della vita a scoprire insieme che... Corro con i miei fratelli alla festa in qualunque luogo, caldi mantelli, resta la musica da colorare, se no serate sì troppo spente, musica ritorna, risuona, corde dona, notte lente, a inseguire la vita. Stringo le mani al cielo nella notte stellata, scoprendo oltre al velo dell'eco del tuo infinito, serrate alate del profumo di noi, già oltre respiriamo il domani di un libero suono. Di noi già oltre respiriamo il domani di un libero suono. Corro con i miei fratelli alla festa in qualunque luogo, caldi mantelli, resta la musica colorare, se no serate sì, troppo spente, musica ritorna, risuona, corde dona, notte lenta a inseguire la vita, l'unica soluzione rimane scopare, scappare, baciare, ballare, lottando, fungendo insieme tra rose di un prato di Eros, mistero della della vita, da scoprire insieme. Non lasciarlo, non lasciarci, non lasciarmi ragazza, di nozze blu, nella notte troppo pazza, d'assenza, stringi le mani a tutti quanti, viviamo morendo insieme come amanti. Non lasciarlo, non lasciarci, non lasciarmi ragazza, di nozze blu, nella notte troppo pazza, d'assenza tua, stringi le mani a tutti quanti, moriamo morendo insieme come amanti. L'unica soluzione rimane scappare, ballare, scopare, baciare lontano, fuggendo insieme tra le rose di un prato di Eros, mistero della vita da scoprire insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, insieme.